La Lombardia, dunque, sullo sfondo le accuse di aggiustare i dati su contagi e guariti fatta dall'analisi di Gimbe, della quale avete sentito ieri qua a 24 mattino. Dall'altra l'attesa per le decisioni che verranno prese sui movimenti tra le regioni, che dovrebbero arrivare oggi e che potrebbero escluderla, lasciandone chiusi i confini, oggi o domani, insomma, non è molto chiaro. Le due cose, non vi sfuggirà, sono ovviamente collegate. In tutto ciò riparte la Serie A, prima con la Coppa Italia a metà giugno, poi con il campionato a partire dal 20. I riflettori si puntano nel frattempo sugli Stati Uniti, dove dopo la vicenda di George Floyd, l'afroamericano morto durante un controllo di polizia mentre un agente gli teneva un ginocchio sul collo, la protesta è arrivata al suo terzo giorno, il più duro finora. Un rogo davanti al commissariato di Minneapolis, 30 arresti a New York, spari durante la manifestazione di Denver. Il presidente americano Trump definisce scioccante il video dell'arresto in una conferenza stampa nella quale annuncia la sua mossa contro i social media dopo la decisione di Twitter di smentire alcune affermazioni del presidente americano. Le piattaforme saranno perseguibili penalmente per i contenuti pubblicati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. So love me. Venerdì 29 maggio, le 6:31 minuti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Alla vigilia del fine settimana che potrebbe consegnarci la libertà di muoverci tra regione e regione, tra varie regioni. Eccoci con la task force di questa mattina, composta da Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, e come al solito il resto della redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E la nostra vera task force, che siete voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, fatemene sentire, Si è scatenata, ragazzi, una guerra nord contro sud, resto del mondo contro la Lombardia, pazzesca. Guardavo i social ieri. Dovete ricordarvi che noi lombardi giriamo e spendiamo dappertutto, portiamo i nostri soldi nelle regioni nelle quali andiamo. Gli altri che dicono no, ve ne dovete rimanere a casa, possiamo fare a meno di voi. Oh, calma, è una questione sanitaria, non è una questione di derby di chissà quale tipo. Eh sì, a questo gioco ha contribuito il sindaco di Milano, Beppe Sala, Mi sa che è un po' esagerato, Poi questa questione dei numeri, l'avete sentita ieri, avevamo ospite Cartabellotta, Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, qua a 24 Mattina, è stato ospite nostro ieri alle 8:20 e le dichiarazioni che ha fatto da noi hanno scatenato addirittura la querela della Regione Lombardia nei confronti della Fondazione Gimbe. Oggi ovviamente alle 8:20 la replica della Regione. Però risentiamocelo questo Cartabellotta sulla Lombardia, va? In Lombardia si sono verificate troppe stranezze sui dati nel corso di questi tre mesi. Soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti alla protezione civile, quindi andavano ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti, alternanza e ritardi nella comunicazione dei dati e nella trasmissione, che poteva essere giustificata nella fase 2 dell'emergenza quando c'erano tantissimi casi, ma molto meno ora, e paradossalmente i riconteggi sono molto più frequenti in questa fase 2. Cioè, è come se si fosse la sorta di necessità, voglio dire, di mantenere sotto un certo livello quelli che sono il numero dei casi diagnosticati. Oh, Carta bellota che poi alla 7, 8 e mezzo aggiunge: siamo contenti della querela, così i numeri li andiamo a vedere. Siamo contenti di essere stati querelati, ma mi piacerebbe che la Regione Lombardia, come atto di trasparenza verso i propri cittadini, rendesse pubblici i dati in formato aperto, come fa il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige, l'Umbria e il Lazio, cioè come tante regioni mettono a disposizione dei ricercatori e dei cittadini i dati. Io credo che come atto di trasparenza, anche per rafforzare quella che è la querela, debba farlo anche la Regione Lombardia. In tutto ciò il presidente della regione Fontana appare in un video, insomma, di un minuto circa, nel quale dice: no, ma tranquilli, i nostri dati sono positivi. Abbiamo esaminato i dati relativi alla regione Lombardia che abbiamo inviato all'Istituto Superiore della Sanità e abbiamo potuto evidenziare come gli stessi siano tutti estremamente positivi. Soprattutto sono tutti in miglioramento rispetto alle precedenti settimane. Questo vuol dire che la situazione sta sostanzialmente migliorando. Ancora Fontana. Sono quindi molto confidente sul provvedimento che verrà emanato dal governo e sono praticamente convinto che dal 3 i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia. I numeri, ci torniamo tra un attimo e andremo a mettere i riflettori su Bergamo, ma intanto vi voglio leggere un passaggio di un'intervista realizzata da Michele Bocci sul quotidiano La Repubblica. Siamo a pagina 13 a Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, il quale non si sofferma sulla Lombardia, ma... ragazzi, stiamo a posto proprio, I dati delle regioni non sono attendibili e quindi non possono essere di aiuto alle decisioni della politica, dice Ricciardi. Io non so, veramente. Cara Flavia Perina, come stai? Buongiorno. Buongiorno, molto bene. Voi anche, vi sento in ottima forma. Sì. Discretamente, grazie. Giornalista dell'Inchiesta e tante altre cose, scrive anche per La Stampa. Allora, Flavia, qua mi pare che questa è una questione che sottolineiamo fin dall'inizio, cioè ci sono delle incongruenze nei numeri, non solamente delle regioni, non solamente della regione Lombardia, ma anche delle altre regioni. Io continuo a portare l'esempio della Puglia, che ha il tasso più basso di tamponi effettuati per numero di abitanti e quindi io non so che livello di credibilità sull'estensione del contagio possano avere per esempio i dati pugliesi, ma anche quelli che sono stati forniti quotidianamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Si è fatto un casino pazzesco sui numeri, diciamocelo, no Flavia? È stato fatto un pasticcio fin dall'inizio e fin dall'inizio abbiamo avuto la dimostrazione di come è molto difficile in una situazione di emergenza gravissima come questa gestire un problema a livello nazionale con 21 piccoli statarelli, cioè le nostre regioni, dove ognuno si regola per conto suo, cioè i suoi protocolli, le sue procedure, il suo modo di conteggiare, le sue indicazioni sui tamponi. Fino a qualche tempo fa, ancora un anno fa, si discuteva tantissimo in politica sul tema del federalismo, dicendo che la soluzione a tutti i problemi italiani era suddividere, dare più potere alle regioni e meno potere allo Stato centrale. Se possiamo trarre una lezione da questa situazione è quella che forse ci sbagliavamo, forse chi sosteneva questa tesi si sbagliava, perché in alcune circostanze, nelle grandi emergenze nazionali, lo Stato centrale deve avere la possibilità di rivendicare per sé dei poteri e dettare regole uguali per tutti. Questa vicenda è veramente surreale, perché da un lato ci sono le preoccupazioni di tutto il Paese di tornare a un nuovo livello di contagio, un nuovo lockdown con conseguenze che sarebbero fatali per l'economia, dall'altra c'è una delle regioni più più importanti dal punto di vista economico d'Italia, come la Lombardia, e si dice giustamente: ma perché dobbiamo essere, noi stiamo migliorando, la nostra situazione è buona, ma nessuno può sapere qual è la verità. Sì. Nessuno può sapere qual è la verità. Allora, io guarda, te lo dico, Flavia, non so se sono d'accordo con te su questo tema del federalismo, perché comunque ha il vantaggio che ti, da una parte, ha il vantaggio che ti mette di fronte alla qualità effettiva delle tue classi dirigenti, di quelle più vicine nel territorio. E c'è qualcun altro che non sarebbe d'accordo? Abbiamo avuto ospite Luca Zaia l'altro giorno, che torna a rivendicare l'autonomia regionale, ed è uno che tutto sommato ha tutte le ragioni per farlo in questo momento, no? Perché dal punto di vista di come è stata gestita l'epidemia in Veneto, mi pare che, no? È un discorso da primo della classe, ma purtroppo su 21 regioni non è che sono tutti quanti primi della classe. Credo che per tutelare un largo interesse nazionale, cioè il diritto alla salute, a non essere contagiati, a sapere che cosa sta succedendo sia al sud sia al nord, perché effettivamente se tu il virus non lo cerchi, se fai 50 tamponi al giorno, è ovvio che i dati saranno buonissimi. Se ne fai 10.000 probabilmente i dati saranno diversi. Certo. E tutto questo non può essere lasciato né al protagonismo dei singoli governatori, che in questa circostanza si sono sentiti un po' le superstar del momento, quindi ognuno ha avuto una grande visibilità televisiva, ciascuno si è giocato le sue carte mediatiche, né a sistemi di conteggio, di calcolo, a sistemi sanitari, che ognuno va per conto suo. L'intervista di oggi di Ricciardi è in qualche modo raccapricciata. Sì, no, guarda, io per me, ma infatti l'ho presa perché è importante, perché noi non possiamo sapere come fa l'epidemia in Italia. È incredibile, cioè, è incredibile. Ed è tra l'altro di taglio basso su Repubblica, pagina 13, un po' nascosta, no? All'interno del giornale. È veramente incredibile. Allora, cosa ancora? Ah, tra l'altro, Ricciardi poi ieri ha parlato, adesso in qualche trasmissione, ma vediamo di ricostruire, sentiamocelo. Va. Se noi estrapolassimo la Lombardia, avremmo l'Italia ai livelli della Danimarca e dell'Austria. E chiaramente esiste un peso importante che una regione così grande, che di fatto è un paese, perché la regione Lombardia da sola è esattamente un paese membro di quelli grandi, e questo naturalmente conta. Così dunque Ricciardi. Abbiamo anche il presidente della regione Piemonte, perché ieri Cartabellotta, ospite da noi ma non solo, nell'analisi che ha diffuso ieri Gimbe, dice insomma anche il Piemonte non è messo proprio bene, stando ai dati e stando a quello che vediamo. Il presidente Cirio: io sto a quello che è il monitoraggio ministeriale, a questa pagella così complessa che viene redatta ogni settimana, arriverà giusto domani, e a oggi il report 0, 1 e 2, che sono i tre report che abbiamo avuto nelle settimane passate, dicono che tutti gli indicatori del Piemonte sono a posto, sono in regola, sono ampiamente all'interno dei parametri. Così Cirio, mentre il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini annuncia test sierologico a 500.000 di cittadini della regione. Noi stiamo facendo una campagna di test sierologici a tappeto. E da noi lo faremo su 500.000 di persone in poche settimane, e appena uno ha l'impressione che sia positivo si fa subito il tampone. Capito come ci si muove? Mentre dovrebbero partire adesso i test sierologici, quelli voluti dallo Stato centrale, quelli fatti dall'Istat in collaborazione con la Croce Rossa, riguarderanno 150.000 persone, campionate, e però la gente in questo momento, e qua Flavia, ecco, l'altra questione, no? Tutta la parte di approvvigionamenti, di capacità di fare tamponi, è stata gestita non benissimo. Quindi in che situazione ti trovi? In una situazione nella quale le persone hanno paura a fare il test sierologico, perché col test sierologico tu ottieni la notizia se hai gli anticorpi oppure no. A quel punto ti isolano a casa finché non ti fanno il tampone per capire se sei positivo oppure no, ossia se quegli anticorpi sono dovuti al fatto che il virus è ancora in corso o al fatto che il virus è passato. E però non sai quando ti fanno il tampone, no? E quindi rischi di rimanere isolato, da perfettamente guarito da Covid-19, per un tempo indefinito. Anche qua un altro paradosso, mi pare. Ma l'indagine dell'Istat sulla diffusione del virus è l'indagine seria, quella che avrebbe dovuto essere fatta dai primissimi giorni del lockdown e ci avrebbe dato la misura della quantità e qualità dei contagi. E purtroppo anche questa indagine è partita con un grandissimo ritardo. Se fosse partita, se il governo avesse dato via libera a questo accertamento durante il lockdown, ci sarebbero stati molto meno problemi, perché stavamo comunque tutti quanti in isolamento, in quarantena, e quindi la gente non avrebbe avuto questo tipo di preoccupazioni. Ovviamente farla partire adesso può diventare un problema, perché i singoli cittadini, essendo un'indagine su base volontaria, i singoli cittadini possono rifiutarsi di farlo. È stato l'allungamento dei tempi ad aver reso più complicata e più in salita l'unico strumento che noi potevamo avere di conoscere la realtà della diffusione del virus. Sì. Poi questa guerra tra regioni, il ministro Boccia che dice le regioni non possono ostacolare la circolazione delle persone, il presidente sardo Solinas che insiste sul tema di questo passaporto sanitario, ancora carta bellotta ieri da noi, non so se siamo riusciti a recuperarlo stamattina di volata, però ha detto, sapete cos'è questa storia del passaporto sanitario? È come la corazzata Potionkin per Fantozzi, ci ha detto ieri. Però Solinas insiste, sentiamolo, va. Qui non è in gioco il radical chicchismo da salotto per dimostrare chi è più o meno accogliente. Qui c'è un problema concreto di sicurezza sanitaria per tutti e di non discriminazione. Io ho detto con chiarezza che dal 3 di giugno la Sardegna vuole aprire le porte a tutti i turisti senza fare alcuna distinzione di provenienza. Così la Sardegna e questa guerra nord sud, questa panna sulla guerra nord sud che si monta, traffico. Mattino. Contesto l'ascoltatore che mi scrive con il senno di poi sapete sempre tutto, tu chiamali se vuoi giornalisti, perché questa storia dei numeri noi la ribadiamo da settimane, cioè da settimane che diciamo che non c'è chiarezza sui numeri che vengono forniti dalle regioni e dall'Istituto Superiore di Sanità, e più di una volta da questa sede li abbiamo contestati. Le scuole ripartiranno, si parla di ore di 40 minuti, ovviamente il pasto da casa, il distanziamento, tutti i problemi che possiamo immaginare. Devo dire, stupisce un po' sentire la ministra dell'istruzione Azzolina ieri definire la riapertura a settembre come un obiettivo. Voglio ribadirlo con chiarezza. La riapertura delle scuole a settembre e la ripresa dell'attività didattica in presenza sono un'esigenza per gli studenti e per le loro famiglie ed è un obiettivo condiviso da tutto il governo. No, obiettivo condiviso niente, cioè le scuole devono riaprire a settembre, cioè diciamocelo molto chiaro, non ci sono storie a questo punto, cioè già siamo in ritardo così, le scuole devono riaprire a settembre. E fatemi esprimere la mia perplessità, non so Flavia se sei d'accordo, sul fare le elezioni regionali il 20 di settembre, perché là rischi, no, di ritardare ulteriormente il fondato sospetto da qualche parte che forse si voglia ritardare ulteriormente la riapertura delle scuole con le elezioni regionali. Che dici? Un po' troppo forse? Forse un po' troppo, però non c'è dubbio che la scuola è stata la grandissima cenerentola di questa emergenza. Ci siamo preoccupati tantissimo della riapertura di qualsiasi attività, e compreso il campionato di calcio, che è stata una specie di ossessione, un dibattito ossessivo in questi giorni, mentre sembra che la questione della scuola sia totalmente secondaria. E è una questione centrale, non si capisce per quale motivo tutti i paesi europei si sono organizzati per far riaprire le scuole addirittura prima dell'estate. Noi siamo forse l'unico paese che ha rinviato questa riapertura all'autunno. Non si capisce per quale motivo ci sia questa confusione in materia. Tra l'altro ci sono 2-3 mesi per organizzare una riapertura ordinata, per copiare, prendiamo quello che hanno fatto gli altri paesi, copiamo le modalità di ingresso, di permanenza a scuola che hanno fatto gli altri. Non mi sembra una grande difficoltà, mentre invece qua si continua a mantenere milioni di famiglie in una totale incertezza. e senza considerare il fatto che le letture a distanza che noi stiamo facendo, ce lo dicono qua dati assai affidabili, hanno tagliato fuori un numero enorme di ragazzi e di bambini che non hanno le dotazioni tecnologiche necessarie, certo, per seguire le lezioni, certo, a distanza. Certo. Non possiamo abbandonare una fetta del paese all'ignoranza, all'abbandono scolastico. Già abbiamo un gravissimo problema di abbandono scolastico perché non siamo capaci di organizzare la riapertura dell'istruzione come hanno fatto tutta l'Europa. Il rischio su settembre è altissimo. Intanto, come si diceva, riparte il campionato, no? Il ministro Spadafora. Oggi possiamo quindi dire che il campionato riprende il 20 giugno. Ovviamente mi sono confrontato al termine della riunione col presidente del Consiglio Conte, che evidentemente ha espresso il suo compiacimento per la soluzione unitaria che si è ritrovata tutti quanti, che abbiamo ritrovato tutti quanti insieme. Sì, lo dico agli ascoltatori, ci stanno scrivendo un po' ossessivamente. Sì, le regioni italiane sono 20, ma la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano agiscono appunto autonomamente e quindi di fatto è come se fossero 21 regioni, cioè dal punto di vista operativo è come se fossero 21 regioni. Isaia Invernizzi, buongiorno, ciao, giornalista dell'Eco di Bergamo. Ciao Isaia, eccoci. Ciao, grazie mille per l'invito. Allora, a proposito di numeri, Isaia insieme ad altri colleghi sta facendo un lavoro molto interessante sui numeri e ovviamente sui numeri della provincia di Bergamo, che come ben sappiamo è insieme a quella di Brescia quella che è stata più colpita anche drammaticamente da questa pandemia. Isaia, a che punto siamo e come sta andando il monitoraggio dei nuovi casi? Beh, allora, come sta andando il monitoraggio dei nuovi casi? È una domanda molto difficile a rispondere perché proprio la qualità del dato è ormai compromessa, diciamo così. Noi tutti i giorni vediamo appunto questo andamento, diciamo, i contagi su, i contagi giù. In realtà, come si può vedere anche dagli stessi report parziali che la Regione Lombardia diffonde, ci sono molte variabili che vengono poco considerate. Faccio solo un esempio: in provincia di Bergamo l'altro giorno è stato diffuso un dato sui nuovi contagiati a cui con un semplice asterisco venivano aggiunti altri 168 contagiati, che non sono pochi insomma, sì, che derivavano dalla settimana precedente sulla base di test sierologici a cui poi è stato fatto il tampone e quindi sono quelle persone risultate effettivamente positive ma che venivano aggiunte con un asterisco. Questo è successo in provincia di Bergamo, succede anche in altre province, fa capire un po' appunto la qualità del dato di cui stiamo parlando e su cui poi purtroppo vengono anche è la norma, insomma, vengono prese le decisioni politiche sulla riapertura, chiusura, insomma tutto. A tutt'oggi il monitoraggio su Bergamo come avviene, con che profondità sta avvenendo? A Bergamo dall'inizio il grosso problema è che sono stati fatti troppo pochi tamponi. Lo ha ammesso anche la stessa ATS di Bergamo perché in corso d'opera sono state comprate dei nuovi macchinari per aumentare questo numero di tamponi, purtroppo questi macchinari non sono ancora arrivati. Solo per dare un'idea, noi abbiamo fatto un'inchiesta su questo, è perfino difficile monitorare il numero dei decessi, quindi questo può far capire esattamente. E noi non sappiamo effettivamente quante persone siano morte a Bergamo e provincia. Allora, non sappiamo effettivamente quante persone siano morte, soprattutto non vengono diffusi i dati dei decessi ufficiali Covid. La Regione Lombardia non diffonde i dati per provincia e nemmeno per comune di quante persone muoiono ufficialmente malate di Covid-19. Noi come Eco di Bergamo abbiamo fatto un'inchiesta raccogliendo i dati dei decessi totali, quindi tutti i morti tra tutti i 243 comuni della provincia di Bergamo, e abbiamo determinato che nei due mesi clou dell'emergenza, quindi marzo e aprile, sono morte 6.000 persone in più rispetto al 2019. L'anno scorso erano morte 1.700 persone per tutte le cause e quest'anno i morti totali in provincia di Bergamo sono 7.700, quindi la sovramortalità che è riconducibile poi all'emergenza, non si può dire che tutte le persone siano malate di Covid-19, però certo, è riconducibile all'emergenza, sono 6.000. E da una nostra ricostruzione sulla base di alcuni report che siamo riusciti a ottenere da fonti regionali, i decessi in provincia di Bergamo ufficiali sono intorno ai 3.080-3.100, quindi insomma la metà rispetto alle morti reali che sono avvenute sul territorio. E questi i numeri. Grazie Isaia Invernizzi e grazie anche a Flavia Perina. Prima di chiudere vi voglio far sentire l'audio che arriva questa notte, che è arrivato questa notte da Minneapolis, dove ci sono state delle proteste. Come sapete, la vicenda è quella di George Floyd, un afroamericano che è morto durante un controllo di polizia. La scena è terrificante per chi l'ha vista. C'è questo video nel quale c'è un poliziotto che ferma quest'uomo, gli tiene un ginocchio sul collo, glielo tiene per 10 minuti, lui che urla non respiro, non respiro, non respiro. Le persone che si avvicinano e gli chiedono, chiedono al poliziotto di mollare, di lasciare, dopodiché Floyd smette di parlare, smette anche di respirare, arriva un'ambulanza, ma naturalmente non c'è più nulla da fare, e da là sono scattate appunto le proteste alle quali stiamo assistendo in queste ore. Spari a Denver, appunto a Minneapolis, un rogo davanti al commissariato. E andiamo a chiudere, e visto che abbiamo 20 secondi in più, ve lo ricordo un'altra volta, visto che si avvicina il fine settimana e avete più tempo per ascoltare qualcosa di diverso, è tornato online uno dei prodotti dei quali vado più fiero, e scusate l'intervento personale, Si tratta del Gazzettino del Risorgimento. È una trasmissione che facemmo insieme a Paolo Piacenza, nella quale si raccontava quell'epoca storica come se fosse un giornale radio, cioè col linguaggio attualizzato, con i servizi, con gli audio, per quanto possibile, non dall'epoca naturalmente. Andate sul nostro sito nella sezione dedicata alla scuola e lo troverete. E poi ditemi anche che ne pensate. 24 mattino che ho su radio24.it, se non l'avete mai sentito, ovviamente. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa e con Paolo Mieli.